Italia in controluce. Benvenuti nel pomeriggio di Radio 24, in studio Daniele Biacchessi, tutti i giorni due edizioni di Italia in controluce, il programma della redazione di Radio 24 sulle inchieste, sui reportage di cronaca, politica, costume, spettacolo. Stiamo lavorando ad inchieste e reportage, torneremo sul presunto pericolo terroristico in Italia, parleremo di ticket crossing, di carcere e scuola, del museo del viaggio, di certificati antimafia, di progetti salvamamme, del degrado di Ventotene e di molte altre cose. Trasmetteremo anche alcune interviste ai cosiddetti pretacci, cioè ai preti di frontiera che combattono ogni giorno le illegalità e stanno a fianco dei più deboli. E ora lascio la linea a Piera Ceci con Scuola in Controluce, dedicata oggi all'edilizia scolastica nelle zone alluvionate. Scuola in Controluce. Alcuni di loro hanno, anche fermandomi in paese, hanno tenuto a far sapere che hanno fatto i compiti, che non hanno perso i libri, che non hanno perso il materiale. Quindi abbiamo visto la voglia di quotidianità, di normalità, insomma, e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio e di riprovarci. Hanno reagito così gli studenti di Brugnato, in provincia di La Spezia, dopo l'alluvione di martedì 25 ottobre nel Levante Ligure, in Lunigiana. Alcuni bambini della primaria hanno visto la loro scuola, la De Amicis, violentata dal fango, i loro banchi distrutti. Tutti insieme, insegnanti, volontari, familiari, hanno lavorato senza sosta per cancellare il passaggio del fango e dell'acqua con i bambini che regalavano le loro merendine in segno di riconoscenza. Ed ora la scuola è già a posto, anche grazie ai contributi privati, pronta a riaprire non appena la nuova emergenza e le nuove piogge saranno passate. E la scuola dell'infanzia ha funzionato fra mille difficoltà. Gli insegnanti hanno dato infatti la loro disponibilità a tenere i bambini per consentire ai genitori di pulire le case, di ripristinare quanto prima una parvenza di normalità. La scuola media invece non ha subito danni, ma non la dimenticheranno tanto facilmente quella notte, quelle due giornate passate con i loro insegnanti chiusi nelle loro aule senza poter uscire, senza sapere cosa fosse successo ai loro genitori e alle loro case. Intorno il rumore dell'acqua che non la smetteva di venire giù. Ci racconta questa incredibile esperienza Patrizia De Mattei, una delle insegnanti rimasta intrappolata nella scuola insieme ai ragazzi. Nel pomeriggio si è verificata questa alluvione, per cui dalla scuola siamo rimasti isolati, ma vedevamo questo mare di fango tumultuoso ed acqua che aveva un boato impressionante. E poi successivamente siamo rimasti isolati come luce e telefono. Sapevamo che le attrazioni non potevano raggiungerci, quindi alcuni ragazzini non avrebbero più avuto modo di andare a casa. E quella sera ci siamo adattati, quindi la sera del 25 ci siamo adattati, abbiamo messo i ragazzi a dormire su dei pannelli di polistirolo di un cantiere adiacente e fortunatamente due tecnici dell'Enel che si sono rifugiati su ci hanno procurato un po' di pane, dell'acqua e quindi i ragazzi li abbiamo stesi a dormire su questo giaciglio d'emergenza e noi abbiamo aspettato mattino, noi insegnanti eravamo circa 6 insegnanti, abbiamo aspettato il mattino delle sedie, insomma, con questo rumore sordo dell'acqua che ancora non si placava e nel buio più totale perché non si riusciva poi a capire la portata, insomma, dell'evento, ecco. Immagino anche la preoccupazione, perché eravate riusciti a chiamare a casa? La preoccupazione, guardi, per le colleghe per i colleghi di Spezia era naturalmente, il problema era quello poi di ritornare a casa. Io abito qui, quindi vedevo la mia casa sommersa dall'alluvione. Alcuni dei ragazzi che vengono da Borghetto Vara erano molto preoccupati, perché poi a un certo punto c'è stato un tam-tam di notizie per cui hanno iniziato a sapere che c'erano stati dei morti, quindi alcuni ragazzini chiaramente erano molto preoccupati. Fino al giorno dopo, fino a quando non siamo stati poi raggiunti, è in tarda serata dal sindaco con delle provviste e poi dai primi volontari che hanno iniziato ad arrivare, hanno iniziato a rifornirci, insomma. Comunque siamo rimasti su praticamente per due giorni. Ma i ragazzi come hanno reagito? Ma guardi, i ragazzi poi a un certo punto, diciamo che siamo riusciti a tranquillizzarli, quindi vedendo poi noi tranquilli, sì, erano a disagio, però hanno retto molto bene, sono stati molto calmi, molto, molto equilibrati, ecco. Alla fine poi, vedendo appunto che noi non davamo segni particolari di agitazione, abbiamo spiegato che insomma tutto sommato è un'emergenza, le emergenze si possono verificare, noi avevamo almeno il vantaggio di essere in un luogo sicuro. Una vera e propria lezione di vita a proposito di scuola. È una lezione di vita, è vero, una lezione tra l'altro importante, perché forse c'è stato anche un contatto umano tra noi e loro che normalmente non c'è, insomma, si è andati molto oltre i ruoli, ecco, questo sì. Si sarebbe mai immaginata di dover fare una lezione così particolare? No, assolutamente no, questo no, però credo che il nostro profilo, anche sia professionale che etico, cioè preveda queste cose, ecco, bisognerebbe veramente esprimersi e riuscire a far emergere l'umano molto di più, ecco, ce l'abbiamo fatto, ora da domani mattina con un po' di volontariato cercheremo di riprendere i contatti con i ragazzi, di farli di nuovo venire a scuola. Da Brugnato a Monterosso, siamo ancora in provincia di La Spezia. Due le scuole, una dell'infanzia, una primaria e secondaria di primo grado, entrambe pesantemente lesionate. E anche qua si è spalato senza sosta prima che le nuove piogge costringessero il paese all'evacuazione, come ci racconta il vice sindaco di Monterosso, Marisa Cebrelli. A Monterosso la scuola ha dei problemi e l'asilo invece pure. Quindi abbiamo risolto, abbiamo una struttura qua in cima al paese molto grande, l'Istituto Padre Semeria, che ha messo a disposizione delle sale dove faremo le elementari e l'asilo, cioè la scuola d'infanzia, mentre le scuole medie, i bambini più grandi, che sono meno da spostare perché ce ne sono solo 16-17, li mandiamo a Levanto. Quando è previsto che si possa tornare in qualche modo a rimandare i ragazzi a scuola? Ma io mi auguro presto, comunque prima che la situazione torni un po' normale ci vorrà un po' di tempo. Che cosa è successo a queste scuole? La scuola dell'infanzia, sono crollate le scale esterne, cioè sono crollate, la valanga si è portata via le scale esterne, quindi come struttura è in piedi ed è perfetta, però non ci si può arrivare perché mancano le scale, quindi sarebbe un lavoro minore. La scuola delle medie ed elementari purtroppo era appena stata messa a posto, abbiamo speso una marea di soldi per sistemarla, metterla in regola con tutto, e adesso dovremo rifare le coperture, c'è una parte di tetto e poi la strada davanti, che siccome è in cima bisogna fare una salita per arrivarci, ci è piovuto giù di tutto anche lì e bisogna liberare dalla frana. Stanno lavorando? C'è qualcuno che si sta già prodigando in tal senso? Guardi, praticamente stanno lavorando dappertutto, cioè non c'è un angolo del paese dove non ci sia qualcuno che sta lavorando. È proprio... Gli insegnanti si stanno dando da fare anche loro? Anche gli insegnanti stanno, guarda, in questo momento sono riusciti ad entrare insieme ai vigili del fuoco per poter prendere i registri e un computer da portare su, perché così almeno potranno restare in collegamento con il resto della scuola a Levanto. Anche perché la normalità, il ritorno alla normalità passa anche attraverso la riapertura, esatto, delle scuole. Infatti noi abbiamo cercato proprio per questo di affrettare i tempi della riapertura della scuola per portare i bambini alla normalità, anche se i bambini tutto sommato l'hanno presa come un gioco, perché sono bambini e tutto questo trambusto, questa gente che va, chi viene, per loro è un divertimento. Era la seconda edizione, quella che avete ascoltato, di Italia in Controluce. Ritorniamo lunedì alle 6:30 su Radio 24.